in primo piano. Giornale di edicola, ancora scelgono prevalentemente la Libia. C'è il Sole 24 Ore che invece punta sul nucleare. La scelta nucleare slitta di un anno. Il governo decide una moratoria del piano per individuare i siti delle centrali. La decisione verrà confermata oggi dal Consiglio dei Ministri. Poi, per quel che riguarda la Libia, la carrellata di titoli, il Corriere: Gheddafi resiste, in campo la NATO. Per Repubblica, Libia entra in campo la NATO. E anche la Stampa: sì all'intervento NATO. Per il Giornale: ha vinto l'Italia. Libero invece presenta dei documenti che sarebbero delle prove abbastanza clamorose. Sarko manovra la rivolta libica. Ecco le prove. Le presenta Libero, poi le vedremo. Bossi bacia la mano a Gheddafi, così apre il Fatto Quotidiano, mentre per il Manifesto è "le spariamo" e c'è una foto delle frecce tricolori sullo sfondo. Per l'Unità invece sulla giustizia, ultimo raid, la questione della giustizia, la prescrizione breve di cui abbiamo anche già parlato qui da questi microfoni la scorsa settimana, che è stata presentata ufficialmente. Da cosa voglio partire? Beh, un piccolo guaio per il sottosegretario Daniela Santanchè. Perché oggi si trova su tutti i giornali, per la verità è il settimanale Oggi che è in edicola da oggi, sempre difficile come si può dire, Oggi è in edicola oggi, è un settimanale, e rivela un qualcosa che ha fatto imbestialire la Santanchè, che nel suo curriculum si presenta come laureata in scienze politiche con master alla Bocconi. Solo che al settimanale Oggi, che ha interpellato l'Università Bocconi, non risulta che la Santanchè abbia mai conseguito un master. E allora Santanchè e il master, la Bocconi non lo ha mai fatto. Lei dice: ho i documenti. Il giallo è questo. Sapete che tra l'altro l'opposizione dice: se è vero si dimetta. In Germania il ministro della difesa si è dimesso perché si è spacciato per laureato, invece no, qui la vicenda è diversa, si tratta di un master in discussione. La scuola, la Bocconi dice, magari può aver fatto un corso, ma non è un corso certo che può essere confuso con un master. Il master abbiamo gli archivi, mentre i corsi, ce ne sono di vari tipi, non sono invece tenuti in archivio. La Santanchè sul Corriere dice, forse si sono sbagliati, perché il master, come dice la parola, è un corso di specializzazione post-universitaria, ossia dopo la laurea, laurea che ho conseguito in scienze politiche precedentemente a Torino. Forse hanno cercato il mio cognome, non il mio cognome, Daniela Garnero, com'ero, ma Santanchè, hanno sbagliato per questo. Poi anche sul Fatto Quotidiano, la Santanchè nel mirino, patacca Santanchè, il master del sottosegretario alla Bocconi non risulta. Paola Zanca chiama la Santanchè, che dice: c'è scritto su qualsiasi dizionario, master è un qualunque percorso di formazione dopo la laurea. Ma sull'attestato che lei ha preso c'è scritto master? Le chiediamo. Silenzio. Cosa cambia? Questa non è una risposta della Santanchè, ma il Fatto dice: cosa cambia? È una delle differenze tra master e programmi di formazione. Anche sul Giornale un'intera pagina: Santanchè nel mirino, falso il suo master, lei se la ride, sono ignoranti, mi hanno chiamato perfino dal Fatto, guardi che è una vergogna, io ho fatto un corso di un anno alla Bocconi, uno dei più difficili. E il corso lo posso definire master perché appunto il master è un qualsiasi corso post-universitario, si facciano un master in inglese così magari capiscono. Insomma, il master è il punto che fa un po' fibrillare Daniela Santanchè su tutti i giornali, anche sul Secolo XIX, un'intera pagina: master inventato, Bocconi amara per la Santanchè. Curriculum online in guaia, il sottosegretario. Oggi ha promesso, pubblicherò tutto sul sito. La seconda segnalazione la voglio dare dalla Stampa, pagina 41, l'abbiamo sentita anche dal nostro Dario Ricci in GR Sport, ma vi voglio rallegrare, voi che siete in macchina, magari andate a lavorare per 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 euro al mese, 800 euro al mese, non lo so. Il France Football ha rivelato la classifica dei giocatori e allenatori più pagati di calcio. Vince Lionel Messi, l'argentino del Barcellona, 31 milioni di euro all'anno tra ingaggio e sponsor. Secondo Cristiano Ronaldo, 27 milioni di euro. Terzo, Wayne Rooney, attaccante del Manchester United, 25 milioni di euro. Il migliore allenatore, invece, più pagato, Mourinho, 13,5 milioni di euro. Poi, incredibile, c'è anche Benitez, colui che forse sarà l'unico motivo per cui il Milan vincerà il campionato, Benitez all'Inter, 10,2 milioni di euro è pagato, nonostante sia stato licenziato all'anno. Detto questo, tenetevi i vostri 800, 1000, 2000, 3000 euro al mese e andate al lavoro, spensierati. Certamente ancora la Libia, sulle prime pagine dei giornali, soprattutto si è rifatto vivo Gheddafi, questo da Tripoli. Come racconta Fabrizio Caccia, uno degli inviati del Corriere della Sera, pagina 2, la sfida di Gheddafi dal bunker colpito, non temo i missili. Resto qui, negli ultimi giorni il Rais era sparito, racconta Caccia, il matto scorpione si è rintanato sotto le pietre, dicevano i vecchi seduti al bar Aurora, prendendo il sole in piazza Algeria. Si è rifugiato in un bunker con 40 vergini in mezzo al deserto di Saba, aveva scritto il Daily Mirror. Invece qui, miraggi, Muammar Gheddafi ieri notte è ricomparso, là dove anche i missili avevano bussato, a Baba la Zizia, vale a dire il suo bunker, e parlando ha detto a centinaia di scudi umani in delirio per lui: non temo gli aeroplani che buttano la morte, io sono qui, resisto nella mia tenda perché le masse sono la mia difesa, resto qui perché ci sono di diritto, non temiamo i missili, i libici ci ridono sopra, siamo pronti alla battaglia, breve o lunga che sia, alla fine vinceremo. È un'aggressione ingiusta, americani e europei sono i nuovi nazisti. Questo Gheddafi, il dato politico è che con una telefonata che Obama ha fatto dall'Air Force One al leader del primo ministro della Turchia Erdogan, a Nicolas Sarkozy e al premier britannico Cameron, pare che ormai il ruolo sia passato, come auspicava l'Italia, alla NATO, debba passare alla NATO il controllo delle operazioni, è ciò che voleva l'Italia. Tra l'altro ci sono anche varie retroscene su quelle che sono le scommesse di Berlusconi ora. Sia su Repubblica sia sulla Stampa c'è questa idea che Berlusconi ora voglia mettersi in primo piano, sfruttare anche quello che è il suo rapporto personale, mai negato con Gheddafi, per cercare una soluzione diplomatica. La scommessa di Berlusconi sul Rais: lo convincerò ad andare in esilio. Così su Repubblica Francesco Bei ed Alberto D'Argenio raccontano a pagina 7 questo retroscena. Berlusconi ci crede. Subito dopo i bombardamenti cercherà di convincere il colonnello a fare le valigie grazie a un salvacondotto che lo sottragga al Tribunale Penale Internazionale e gli assicuri l'esilio. È la scommessa su cui sta lavorando il Premier, quella di arrivare a un cessate il fuoco, e non esclude nemmeno di compiere un blitz in prima persona a Tripoli per negoziare con Rais un'uscita di scena onorevole. Affidata questa dichiarazione ai suoi e riportata da Repubblica, state di capire se è vera o no, una dichiarazione di Berlusconi: a Gheddafi non va torto un capello, le immagini della sua casa bombardata mi hanno fatto stare male. Questo avrebbe detto Berlusconi ai suoi fedelissimi. Ma anche sulla Stampa: medierò io con Gheddafi, la tentazione di Berlusconi, prima il cessate il fuoco, poi una trattativa a tutto campo anche con il Rais. Questa sarebbe la strategia del premier italiano. Oggi intanto si discute al Senato del dibattito, e racconta il Corriere della Sera con Paola Di Caro: il Cavaliere vorrebbe evitare l'aula, non sarò protagonista di questa fase. A meno di un cambiamento di scena, a cui viene dato il 5% ormai di possibilità, Berlusconi non parlerà in prima persona oggi al Senato e domani alla Camera, lascerà invece il campo al Ministro degli Esteri Frattini, al Ministro della Difesa della Russa. Paola Di Caro racconta che Berlusconi avrebbe detto questo, sono sempre dichiarazioni, diciamo, nell'entourage: io mi sono impegnato in quel capolavoro di diplomazia e difesa degli interessi nazionali che è il trattato di pace con la Libia. Ho lavorato con tutte le mie forze per favorire un processo di democratizzazione in quel paese. Non posso essere il protagonista in questa fase in cui è in corso un attacco armato a Tripoli. Questa è la posizione di Berlusconi. Come vi anticipavo, Libero oggi ha un documento che il quotidiano di Belpietro e Feltri dice, un documento che prova come Sarkozy, come la Libia, come la Francia sia dietro la mobilitazione, l'insurrezione di parte della Libia, e lo propone. Con Franco Bechis, ecco le prove. Sarko manovra la rivolta libica. Sei mesi fa, 20 ottobre 2010, Tunisi, arriva un aereo della Libyan Airlines con a bordo Nuri Mesmari, capo del protocollo della corte del colonnello Muammar Gheddafi, uno dei più alti papaveri del regime libico, da sempre a fianco del colonnello, l'unico che insieme al ministro degli esteri Moussa Koussa aveva accesso diretto alle residenze del Rais senza bisogno di bussare. Arriva questo aereo a Tripoli. Chi incontra Nuri Mesmari, l'ex braccio destro di Gheddafi, incontra alcuni emissari dei servizi segreti francesi. Questo sta in un documento, alcuni clamorosi documenti, li presenta così, della Direzione Generale della Sicurezza Estera, vale a dire il servizio segreto francese, e anche una clamorosa serie di notizie fatte circolare in ambienti diplomatici. Tra l'altro Libero riproduce anche un notam di a pagina 3 attribuito appunto ai servizi francesi, nel quale si dice: questo braccio destro di Gheddafi ha incontrato dal 21 ottobre alcuni emissari dei francesi. Guarda caso, da allora la Francia ha appoggiato in maniera totale e incondizionata la rivolta contro Tripoli, la rivolta in Libia organizzata da Sarkozy. Ecco le prove, così Libero. Sta di fatto che, insomma, il tema effettivamente su cui si pongono molti dubbi è questo: come mai la Francia abbia accelerato così tanto e che cosa ci sia dietro guerra che per molti è spacciata per umanitaria, ma è una guerra che per tantissimi ha degli interessi che fino a questo momento sono rimasti ancora un po' occulti. C'è tutto il risvolto italiano, ne parleremo alle 8:20 col sottosegretario degli interni Alfredo Mantovano, che sarà il nostro ospite nell'intervista, perché, come racconta il Sole 24 Ore a pagina 5 con Marco Ludovico, le regioni sono pronte ad accogliere i 50.000 profughi, è il piano di Maroni. 50.000 sono attesi, verranno spediti e smistati nelle varie regioni. Ne discuteremo con Mantovano anche di quello che è l'allarme lanciato dal Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini: terrorismo, gli 007 inglesi allertano la coalizione. Sono state intercettate alcune telefonate dall'Inghilterra e sono stati avvisati i vari partner europei, tra cui anche l'Italia, delle telefonate abbastanza inquietanti. Una sarebbe questa di alcuni libici considerati insospettabili, perfettamente radicati nelle realtà occidentali, ma che hanno mantenuto un legame forte con la terra d'origine. Più volte questi uomini nelle telefonate dicono: bisogna combattere, ci dobbiamo impegnare per il sostegno, bisogna fare azioni contro il neocolonialismo, e aggiungono: dove siamo, facciamo. E insomma, anche ovviamente mai sopita, torna però a rivelarsi la minaccia del terrorismo. Come detto, gli altri temi, lasciamo la Libia. Ne parlerà poi Oscar Giannino anche alle 9 di immigrazione. La Libia, l'altro tema che è sulle prime pagine del giornale è quello del nucleare. La scelta nucleare slitta di un anno e l'apertura del Sole 24 Ore. Oggi in Consiglio dei Ministri ci sarà, come anticipato ieri il ministro Romani, una moratoria di un anno, stop di un anno per il nucleare. Il governo vara oggi questo rinvio del piano sulle nuove centrali. Ne parla compiutamente Carmine Fotina a pagina 8 sul Sole. Scatta questa moratoria, ovviamente l'incidente di Fukushima, l'incidente giapponese seguito allo tsunami, è la causa di tutto questo. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere lo stop. Non si capiva ancora fino a tarda serata di ieri se i tecnici dello sviluppo presentassero un decreto oppure se si limiterà a un atto di indirizzo. In quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di una delibera di Palazzo Chigi. Sta di fatto che il nucleare per il momento subisce uno stop di un anno. L'Unità la mette così: la reazione a catena, brutti sondaggi, stop al nucleare. D'altronde quella frase attribuita al ministro dell'ambiente Prestigiacomo qualche giorno fa, cioè non facciamo cazzate, non si possono perdere lezioni sul nucleare, beh certo, sicuramente anche i sondaggi possono aver avuto un ruolo importante in questa decisione. L'altro tema che trovate di stretta politica è quello legato alla giustizia sui giornali. Perché? perché rispunta in maniera ufficiale, in realtà noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana anche ospitando il proponente di questo emendamento, la prescrizione abbreviata per coloro che sono incensurati. Sì alla prescrizione per gli incensurati. Luca Ostellino, a pagina 19 del Sole 24 Ore, i tempi ridotti per chi non ha mai commesso reati, una norma che applicata a tutti i processi e quindi anche quello in cui è imputato Berlusconi nel processo Mills, farebbe accorciare i tempi di prescrizione. C'è da dire che Paniz, l'onorevole Paniz, che è anche avvocato, ai nostri microfoni ci aveva detto che è una norma che non si applica al processo di Berlusconi, però tutti i giornali dicono il contrario. Insomma, qualcuno, come si direbbe con un vecchio adagio, qualcuno tra noi due mente, perché non si capisce questa cosa. Sta di fatto che l'onorevole Paniz ancora ribadisce in un'intervista ad Antonello Caporale su Repubblica: non è una legge per Berlusconi. Intanto, Antonello Caporale fa queste interviste senza rete un po' così, no? Nelle quali ci sono anche delle battute. Intanto Maurizio Paniz si definisce un alpino orgoglioso, e allora il nostro Peter Bescapè in regia annuisce in maniera convinta. Poi lei, onorevole Paniz, è quello che disse che Ruby è la nipote di Mubarak. Confermo, è frutto di un mio convincimento e di una corretta lettura degli atti. Metta testuale, per favore. Scusi, neanche Ghedini avrebbe avuto fegato di dirlo in aula. Ribadisco che Ruby poteva essere ritenuta parente. Metta testuale, per favore. Lei è un combattente innamorato di Berlusconi. Grande rispetto per l'impegno a difesa della nazione e gratitudine per quanto fa. Metta anche questo testuale, per favore. Cioè, tutte le risposte dell'onorevole Paniz si concludono così, secondo Antonello Caporale. Eccola qui, la prescrizione breve: assolutamente no. Smentisco che possa esserci relazione con la posizione o la persona del presidente. Testuale? Grazie. Sì, metta testuale anche questo. E poi, insomma, Paniz dice: non è una legge per Berlusconi. Io non faccio legge ad persona, ma l'aveva detto anche da noi. Insomma, non si capisce bene quale sia la verità. In ogni caso, sia la prescrizione breve per gli incensurati, mentre da cosa ripartiamo dopo il traffico? Beh, ripartiamo da un po' di finanza, perché la vicenda Parmalat-Lactalis è una vicenda che certo è su tutte le prime pagine dei giornali, anche sul Sole 24 Ore, anche perché oggi potrebbe esserci novità importanti al Consiglio dei Ministri. I francesi si prendono Parmalat, si potrebbe riassumere così quello che su tutti i giornali, in prima pagina anche del Sole 24 Ore, ci sono due pagine all'interno, è la vicenda Lactalis che si è comprata al 29% di Parmalat, perché i fondi Zenith, Skagen, McKenzie hanno deciso di cedere a Lactalis una quota del 15,3% detenuta nel gruppo italiano, e dunque il gruppo francese si trova ora a detenere il 29% di Parmalat. E insomma, dopo che i francesi si sono anche pappati Louis Vuitton qualche giorno fa, insomma, a questo punto si vuole correre ai ripari. Sapete, il ministro all'economia Tremonti lo ha annunciato nei giorni scorsi, una sorta di freno alle scalate estere, e ovviamente si guarda soprattutto alla Francia. Tra l'altro, non dimentichiamo, insomma, tra Italia e Francia in questo momento anche la questione della guerra. Insomma, c'è qualche motivo di tensione, no? Con i nostri amici transalpini. E allora Carlo Marroni racconta a pagina 6 del Sole come l'Italia proverà a fermare e a frenare Parigi in Consiglio dei Ministri. Nel momento di massima tensione, appunto, tra Italia e Francia sulla missione libica, arriva in Consiglio il decreto legge antiscalate. Serve a blindare i settori strategici del paese. Il modello, tra l'altro, è proprio quello francese, in particolare la legge del 2005, il principio e la reciprocità. Il progetto che entrerà in Consiglio dei Ministri prevederà i settori più sensibili come l'agroalimentare, caso Parmalat, l'energia, le telecomunicazioni, la difesa, prevederebbe l'obbligatorietà del parere preventivo da parte del governo sulle OPA. E tra l'altro anche l'Agenzia delle Entrate ha annunciato ieri, un po' a sorpresa, di volere aprire una verifica fiscale sulla vendita delle partecipazioni di Bulgari a Louis Vuitton. Insomma, shopping francese in Italia, e l'Italia pensa a blindarsi. Un tema molto interessante. Chissà se Oscar Giannino. Oscar, ci senti? Chissà, vedrete che ne parlerà, immagino, nei prossimi giorni. Che dire, c'è ancora un po' di gossip, se volete, sui giornali. C'è per esempio una polemica tra l'Unità e Libero e il Giornale, perché secondo Libero e il Giornale le foto che l'Unità ha pubblicato nei giorni scorsi avevano descritto delle feste hard di Arcore, per esempio quelle con Barbara Guerra con la tuta della polizia in manette. Secondo il Giornale le prove dell'Unità sono porno patacche, sono in realtà foto scattate a una festa di Halloween in discoteca e non nella residenza di Arcore. Chi lo sa dove sono state scattate queste foto? Anche un bel chi se ne frega, si può passare oltre. Così come Rosy Bindi, che sempre per gli amanti del gossip, oggi sul settimanale rivela: ho avuto 3 fidanzati e li ho lasciati tutti io. Uno piaceva molto a nonna, che era innamorata di quel ragazzo per bene con gli occhi celesti. Rosy Bindi. Allora, 2 notizie di cronaca prima di chiudere. Intanto, una è quella del tema del nostro sondaggio. Per 8 anni mi hanno trattato da giustiziere, ora riprendo a vivere. Con i suoi avvocati parla per la prima volta, lo fa il Corriere della Sera, Giovanni Petrali, il tabaccaio che ha sparato durante una rapina 8 anni fa. Ha ucciso un rapinatore, ne ha ferito gravemente un altro, è stato assolto in appello. Il giustiziere, la giustizia è finita, dice Giovanni Petrali. Su tutti i giornali passo per giustiziere che insegue e uccide. La verità è che ho colpito i malviventi all'interno del negozio per difendere la vita mia e la vita di mia moglie. Questa è la verità delle perizie e della sentenza. Nel tempo mi sono allontanato dal negozio, però vede, la mia vita era ed è quella, stare dentro un negozio. L'opinione pubblica si è schierata contro di me, ma la gente vera è sempre stata al mio fianco. Un Giovanni Petrali che parla per la prima volta con i suoi 2 avvocati, uno dei 2 avvocati è anche suo figlio, sarà il nostro ospite alle 8:30. Se qualcuno mi domanda vuole cominciare a fare questo mestiere, non saprei cosa dirgli, a parte la ovvia considerazione di non fare i tabaccai. Per 8 anni mi hanno trattato da giustiziere e ora riprendo a vivere, parla Giovanni Petrali, che dice: non voglio più armi, anche se il giudice gli ha ordinato che gli venga riconsegnata la pistola. Parla insomma della paura di fare il commerciante, di vedere entrare persone che non si conoscono, di dover affrontare quegli attimi di terrore. Noi ne parleremo alle 8:30. Assolto il tabaccaio che uccise un rapinatore, ne ferì un altro. Secondo voi è giusto così? Questo è il tema del nostro sondaggio. Parla anche per la prima volta Maria Corbi sulla Stampa, e credo vedremo anche stasera a Matrix di Alessio Vinci la trasmissione con l'intervista. Cosima Misseri è la vicenda di Avetrana. Cosima Misseri è la moglie di Michele, lo zio Michele che è in carcere per omicidio, e la madre di Sabrina, anche lei in carcere per omicidio. Se si fosse confidata con me, Sara si sarebbe salvata. Parla per la prima volta di quel giorno, dice: non ho sentito nulla di quello che è successo in garage, io sono sempre con la televisione accesa anche di notte. Anche di notte. E quindi è difficile sentire qualcosa dal garage. Questa è la frase che mi ha inquietato di più. Sono sempre con la TV accesa, anche di notte. E dunque non ho sentito nulla. È come quando lo zio Michele in carcere, intercettato da un parlamentare, disse: io non leggevo più dal 1978. Ecco, anche su questo si potrebbe discutere molto, sull'antropologia nella quale è maturato questo terribile delitto. Vabbè, ci dobbiamo fermare. Ricordo alle 8:20 il sottosegretario degli interni Alfredo Mantovano, nostro ospite per l'intervista, mentre il sondaggio appunto sul tabaccaio, la legittima difesa, votate pure su radio24.it, questo alle 8:30, il nostro bianco o nero. Ora che dire, lo spazio a GR24.